My father name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Adesso sì, eh? Guarda, mi sono appena sfondato un timpano. Hai sentito il fischio? No, era il fischio di timpano che ruzzolava giù per le scale. Mentre il buon Duccio finisce di ascoltare i suoi dischi di Carmelo Bene. Non li ha trovati quei vinili? Sai che a casa lui si ascolta Carmelo Bene? Vero? Vabbè, oh. Lascialo sta, no? Sta lui il primo set della puntata di Ragnar Pfizer. No, fermati. Ah no, c'è l'ospite. Stai già sbarellando, vecchio. E abbiamo appena cominciato. Non mi dite niente. Allora vai, dimmi. Allora, tutto. Allora, c'ho tutto io, guarda, ci penso io. Non ti devi preoccupare oltre. Io mi metto comodo, tiro giù anche il mio canale, vai tu. Allora, dopo il successo del primo guest mix di 2 settimane fa. Ok, quello del Dinger belga, esatto, che è andato a trovare tutte quelle chicche che ci ha mandato prog rock anni 70. Il prog italiano, super. A questo giro arrivi secondo. Questa volta siamo rimasti in Italia, però non siamo andati all'estero. Okay. Per la precisione, ma alzati il microfono, in cuffia. C'è avuto un'esplosione di voce. Dicevo, siamo andati a Salerno. Non fisicamente, insomma, ci siamo fatti mandare da Salerno. 20 minuti di cumbia, finalmente. Ok. E ce li si è fatti mandare da uno che, insomma, di cumbia e di musica colombiana ne mastica assai, ovvero DJ Papito. Uno che sta dentro alla musica praticamente come noi, insomma, black music, musica da tutte le parti del mondo. E, oltretutto anche collega radiofonico, perché c'ha la trasmissione anche okay. Lui, che si chiama Good Taste su Radio Pelle Nera, che è una web radio. Ah, conosco, come no? La base di Radio Pelle Nera è a Roma. Esatto. DJ Sol, con un bel po' di DJ Capitolini, quelli appassionati e collezionisti di vinile. Allora, siccome non ho link da darvi per andare a cercare le robe di Papito, però vi do un po' di consigli, in quanto io l'ho scoperto bazzicando un paio di blog che qualcuno che ci ascolta so che segue. Conosce e segue. Il primo è soffrito.co.uk e l'altro è solbonanza.com. Sono due blog dove girano mix e produzioni di roba latin, caribbean, afro, eccetera. Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma una compilation targata Soffrito è arrivata proprio oggi in radio. Sì, perché hanno fatto, mi sa, dei singoli. Mi diceva anche Pizzo, lui se l'era preso. Ma uscita proprio una raccolta intera, una compilation. Ora vado a farti un check veloce. Io le bazzico soprattutto per raccogliere un po' di mix di robe un po' più particolari, perché lì è pieno di digger pazzi che mettono su delle bombe, ed è lì che ho beccato un po' di mix di Papito che non conoscevo e l'ho scaricato per curiosità, perché ho letto di un italiano che suonava musica colombiana, quindi sono andato a informarmi così. Ovviamente. E abbiamo trovato il vecchio Papito, digger colossale, un po' di tutti i generi, però ecco, di roba colombiana ne sa veramente un sacco. Quindi se cercate altri mix suoi, che ce ne so tanti, andate a cercarveli su questi due siti qua. Oppure andate su Google e li cercate. Ora mi sono scritto un po' di titoli, ma ce ne so un sacco. Ce n'è uno che si chiama Back to Colombia, Dix Colombia, From Lagos to Caracas, Che Pellicola, Let's Smoke, insomma ce ne sono tanti. Se no cercate Matteo Rivano su Facebook e chiedete a lui. No, se non altro vi dico, sono tutti ottimi mix, quindi okay. Insomma io fossi in voi me li scaricherei tutti, fate un po' voi, insomma io ve l'ho detto, poi vedete un po' voi come vi prende. Perfetto, parte ora quindi il guest mix di questa puntata di Ragnar Paisa. La tracklist di questo mix, come domani, la tracklist dei tre set che poi seguiranno da parte di Biga, Colossius e Duccio, li trovate su ragnarpaisa.blogspot.com da domani. Domani tutto su e niente, vi beccate questi 20 minuti di super cumbia. Cumbia para ti. colete, con mi buena pinta, con mi colega yo, con tu nueva vaina, a estrenar volteado, con el papuqueo, mi buena zambaca, con latigo nuevo, te echo mi mochila, lo que quiero llevo, los tabacos, los billetes, la cajeta de cerilla, la panela, vamos tela, cuando bote mascadilla. Ya llegué a la fiesta, muy entusiasmado. Compro media ropa pa' bailar fumado. Ya mira el fandango y lleva dos ruedas. Es que voy corriendo a buscar pareja. Baila negra, prende esperma, yo te bailo agachadito. Da la vuelta en toda la rueda. Ay Jesús, qué negra buena. Granada, hipódromo Soledad City. Sí, sí, the finish, the finish, the finish. Buen cante, carajo, le dice Wally. Esta noche vas a llevar candela viva. Tu pa balato, tu pa balato, tu pa balato, tu pa balato, tu pa balato. José Jorge Landón, levántate que ya es de día. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga abajo del agua. Sale la febbre della cumbia dentro Mixology. Sentivo dei grilli, ho detto, che succede? Erano i grilli di Duccio. L'ha messi Biga, c'è cioè Biga ha messo i grilli. I grilli che c'ha per la testa Duccio erano. Fantastico, eh? Un mix veramente eccezionale. Allora, casomai qualcuno si fosse collegato nel bel mezzo, vi siete sentiti 20 minuti di cumbia selezionati da DJ Papito di Salerno. Mix esclusivo che potete sentire solamente su questa trasmissione. Eh sì, però andate a caccia di tutto il resto, che insomma degli altri mix che si trovano a giro online di Papito. Fatevi aiutare da Google nell'operazione. Ricordo la storia della cumbia dentro Mixology, cominciata con qualche accenno nelle selezioni di Big, a te che hai tirato fuori gli assi dalla tua collezione. Ma che collezione? Poi... ma ogni tanto, insomma, ci portiamo quei dischetti che abbiamo, insomma. In realtà è un genere che, insomma, continua a conquistare adepti anche molto giovani, non solamente collezionisti appassionati di vinile. Eh sì. Questo punto noi ogni tanto, insomma, spingiamo. Spingete. A questo punto, quando il nostro orologio segna le 21:28, siamo pronti per il DJ set di Biga. Perfetto, no? Per entrare sulla scia del Ora ci pensa lui, vai. E inventarsi qualche trick dei suoni. Se volete chiamarci 055 73 99 33, altrimenti ragrampaisa.blogspot.com. Vai, vai. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Meu pensamento voa num disco voador e o céu branco azul se integra em mim. And I make a song so blue just because the sky is blue. Nas asas do meu sonho I'll be along no more. As nuvens já se desfazem e eu me estendo até você. Só me entendo em você, oh baby. O sol da cordilheira longe se derramou e eu só sei dizer I love you. And I make a song so blue just because the sky is blue. Meu pensamento voa num disco voador e o céu branco azul se integra em mim e eu me estendo até você. A me dizer, oh baby, que eu preciso de você, oh baby, oh baby. Io preciso de você, ultimo brano selezionato da Biga per i suoi 20 minuti, ho bisogno di te. Che romantico. Era salentino? No, era ecco. Portoghese. Guarda, non mi parla salentino perché... Sala di jantar. Cioè, perché mi altero subito. Queres falar portoghese? No, sì, portoghese. Va bene, per il pareggio di domenica scorsa? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché, guarda, mi faccio solo il sangue amaro. Avrei solo offese per descrivere la tua regione. La mia squadra. La tua squadra, la tua gente, la tua regione, tu. Tutti. Vi odio. Guarda, ero in un noto ristorante fiorentino domenica. Sì. E quando hanno scoperto che ero insieme ad altri salentini. Perché non vi hanno linciato? Ci hanno fatto pagare il conto più caro. Vabbè, io vi avrei fatto fare il conto più caro e poi vi avrei menato. Anche giustamente. Sembra logico. A parte ti vedo questo... coi foglietti. A parte questo, ti vedo coi foglietti. A parte questo, mi vedo coi foglietti di altri. Non di me. Quelli che si passano sotto i banchi di scuola. Sì, sì, sì. I suggerimenti. Sì, esatto. Questo per dire, per ricordare, che è uscito il nuovo video di Al Castellana, di un pezzo nuovo di Al Castellana. L'ho visto oggi sulla tua bacheca, davvero, esatto. Molto bello. Anche bello. Il video in bianco e nero, affascinante. La storia d'amore tra lui e lei. Tra l'altro, vabbè, lo so, ma l'ho riconosciuto che... parte del video, cioè credo tutto il video è girato a Perugia. Ok. Mm-hmm. Anche se potrebbe sembrare un club inglese, no? Mm-hmm. Di quelli un po' di periferia. Mm-hmm. Bello, molto bello il pezzo, soprattutto poi anche carino il video. E il pezzo si chiama I Believe, che anticipa l'album, il futuro album di Al Castellana, che uscirà verso marzo/aprile. Aprile. Questo pezzo per adesso vi potete beccare il video appunto su YouTube e, a breve non so quando dovrebbe uscire su iTunes. Sempre in tema di nuove uscite, non dimenticate di fare un check dalle parti della Fresh Yo. Non Yo Fresh ma Fresh Yo, cercatelo nel modo giusto. Perché è appena uscito EP Telefono Casa. Esatto. E un EP appunto che vede protagonisti il nostro Colossius che sta per iniziare il suo set, e Digi Galessio, esatto, che abbiamo visto in tutte le salse lo scorso weekend a Firenze, no? In un live insieme ad Okapi ad X3 e sabato sera insieme nella festa di congedo del nostro Grana. Di Grana. No, più, più che festa di congedo, festa di arruolamento. Pare che abbia scoppiato le amplificazioni sia da una parte che dall'altra per essere bipartisan e dimostrare che è in forma. Guarda, parlando di Alcastellana, possiamo già subito togliere una fetta dagli eventi che diremmo dopo. Sì. E quindi l'avevamo già detto, se non mi sbaglio, la settimana scorsa, però lo ricordiamo perché almeno rinfreschiamo la memoria, che giovedì alla Casa della Creatività ci sarà il live di Gammon, di Mr. Gammon, per Local Heroes. Esatto. Nuovo capitolo del progetto che apre anche ad artisti che non sono strettamente fiorentini o toscani. Apertura della nuova stagione. E quindi curata, Gammon dalla scuderia di Blue curata Nox, da Dave, giusto, curata da Dave di Soul Sick. E quindi niente, giovedì prossimo ricordatevi che Local Heroes inizia presto, esatto, quindi e arrivate alla Casa della Creatività, alla Casa della Creatività per l'ora dell'aperitivo, non molto più tardi, arrivate per quell'ora lì, magari se non è iniziato vi fate un salto di fronte da Marky Moon dove ci sono i dischi buoni. Vi prendete due dischi, vi fate consigliare da Michele se non, certo, se non siete buoni. Soddisferà tutti i vostri gusti. Ricordate che poi giovedì sera, se volete proseguire la serata, il nostro consiglio è di andare a sentire Biga e Pizzo, che suonano insieme al Lido Palmira. Al Lido Palmira, che si trova dentro al Tabasco. Al Tabasco, l'hai detto! Che si è spostato al Tabasco. Volevano tutti che lo dicessi tu. Tabasco, l'hai detto tu. Ma no, già, non capisco. Mi hanno detto che è cambiato. Non capisco queste illazioni. Mi hanno detto che è cambiato come posto. Io ieri, quando mi hanno telefonato per dire di fare altre perché Lido Palmira iniziava al Tabasco, io ti ho detto no, grazie. Ho detto guarda, mi dispiace. Anche no. Preferisco un altro tipo di pubblico. Però mi hanno detto che è cambiato. Bravo, ci devi andare giovedì adesso... e devi provare. No, giovedì non ci andrò mai. No, perché ero stato chiamato per suonare giovedì, però sono con Gammon e quindi è vero, va bene. Allora, gli appuntamenti di venerdì e sabato ve li raccontiamo nel prossimo break. Adesso vi sentite il set di Colossius. You! We'll be right back. Step, squeeze my pectoral, get plural applause. Fresh pulse, deep snores, your bitch might bore me on the shore of the seashore. Surely my gonads, totally rad. Inject that dag, but that gave to me, it really don't do me. I don't sleep, I make heaps of noise. From a council flat with my digital toys. Lord knows I tried to do the right thing, I must cut down on the fried chicken wing. Clean my flat, cause it's disgusting. It's the thing we do. And we're happy doing what we're doing. It's the thing you do. And we're happy doing what we're doing. Beautiful noises for the girls and the boys. I'm overjoyed cause I'm self-employed. Not knowing where my deltoids is, cause it be I'm an asset to the strength for showbiz. My favorite DJ is DJ M Kids. Played it to my mom, but she don't like scratches. Well, swell then, what could it be when many men hate the men that live at number 10? Mr. Chancellor, give me more money to spend. I surrender my Fender base. It gets more basic. Let's face it, I got taste, you can't taste it. My favorite band's a band called Spaces. It's the thing we do, and we're happy doing what we're doing. It's the thing we do, and we're happy doing what we're doing. Rhino, you Uranus, you painless, you canis, you maim us. We don't dead, we be the over death. Ever living, put the bib in my biblical. Phrase the sun, salute. Luna fest, big breasts, old shucks, big nuts. Smucks on my dance, but elbow that fool. Put the money on the body part. Heat wave, son of a rave, don't take me dancing. Old school, new school, crowd of people marching. Heartbeat, instant repeat, repetition expedite. Full flight, Fahrenheit, midday to midnight. Jim turns the time with us. Mess around and you might get slimed by us. It's the thing we do, and we're happy doing what we're doing. It's the thing. To Mumbus Hi-Fi. Yeah man, the big sound station. We rule the nation. Me burn a fire pan a week at Babylon and them free talk. Good and never, never. Solo questi microfoni. Ordine, ordine, ragazzi. Tutti a posto, in silenzio. Madonna. C'è la riunione di condominio stasera. Quei discorsi, guarda. Abbiamo ancora un altro set da giocarci fino alla chiusura di questa puntata, ma soprattutto da ricordare gli appuntamenti di venerdì e sabato. Vai, vai, c'è tutto te. Ho segnato tutto. Allora, venerdì sera avete due possibilità almeno su Firenze. Numa Crew all'Ex 3, Viale Giannotti, Firenze Sud. Invece alla Flog ci trovate DJ War, Treble e Paparichi, tre veterani del reggae salentino. Grande Paparichi, è vecchio, ce lo sai, no? Raga, mo fiche. Ti dico solo una cosa, giovedì scorso ha fatto sentire al pubblico dell'Ex Wide di Pisa, dove si è presentato a sorpresa, un suo mix nuovo, un da plate nuovo, fatto su una base di Jeff Mills. Non sto scherzando, è vero. Paparichi è veramente un personaggio che mi fa venire in mente un sacco di robe. Gossip, sta per uscire un nuovo album di Paparichi. Dentro alla produzione ci troviamo David Nerattini, Magro Marco e un sacco di altra Attenzione. Gente. Attenzione. Sì, sì. Questa non la sa neanche Duccio. Di venerdì vi ho detto, non vi ho ricordato che prima della serata con DJ War e gli altri, Paparichi e Treble, c'è anche la proiezione in esclusiva per l'Italia del documentario The Rockman, che invece riguarda sempre un altro veterano, appunto, Milly Tampiero, fondamentale, dico fondamentale. Bellissimo, ho visto il trailer, deve essere una bomba. Ma hanno detto quelli che hanno avuto la fortuna di vederlo fino adesso che fa venire le lacrime agli occhi. Super, super. Altro appuntamento, altri consigli, tre questa volta per sabato. Hi-Fi Bar al Club 21, mm-hmm. Firenze. Ingresso gratuito, un sacco di gente a suonare, andateci. Se invece siete sulla costa potete scegliere tra Coolie G, dalla Hyper Dub e dalla Dub Organizer, la sua etichetta personale, che suona assieme a Pizzo e un po' di altra gente al Rebeldia, proprio vicino alla stazione a Pisa. Comodo anche arrivarci in treno. Alle 4 c'è il primo treno che da Pisa torna a Firenze. Lo dico, insomma, sono un frequentatore di quella linea. E invece se volete venire al Nevroz, sempre di Pisa, un centro sociale, sempre ci siamo io, War e Tushun Peng a suonare un po' di dischi reggae, drum and bass, dubstep e via dicendo. Ale. Basta. Tutto il resto di Ragnar Paisa di oggi è di Duccio, già in console. Buon ascolto, ci ritroviamo domani su ragnarpaisa.blogspot.com. Yo, this is Nyaman Bushman and right now you got it locked to Moon's iPhone. for love. I'll be there every morning, baby. people can all relate. We must stop fighting to achieve the peace that was taught in our country. We shall all be free. Follow me. Why don't you follow me? of turn. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.